Noi non abbiamo i presupposti per comprendere rettamente la Bibbia quale parola di Dio. Un presupposto è ciò che si deve ammettere come precedente ad altro, o come una condizione. Se mi lavo le mani, uso il sapone, e non un sasso, perché parto dal presupposto che il sapone sia in grado di togliermi lo sporco. Se sono ammalato, vado dal dottore, perché il mio presupposto è che egli sia in grado di aiutarmi. Se mi siedo fiducioso su di una sedia, è perché parto dal presupposto che sia in grado di sostenermi. Così, senza rendercene conto, noi viviamo, ci relazioniamo con gli altri e il mondo che ci circonda sulla base di presupposti. Presupposti che abbiamo acquisito con l'esperienza. La stessa cosa facciamo con la parola di Dio. Leggendo questo libro vecchio di millenni e redatto da persone appartenenti a una cultura diversa e distante dalla nostra, dovremmo partire dal presupposto di una conoscenza profonda del testo e del contesto culturale e storico nel quale esso si cala. Ma per varie ragioni, fra le quali compare anche l'inesattezza delle traduzioni in nostro possesso, siamo carenti in questo presupposto e di conseguenza siamo limitati nella comprensione piena del pensiero di Dio. La mia valutazione non ha lo scopo di scoraggiare chi legge la parola di Dio, ma bensì di mettere in guardia chi si avvicina al testo sacro affinché ricerchi i presupposti giusti per comprendere ciò che legge. La mentalità moderna, soprattutto quella occidentale, non è confacente a una esatta comprensione del pensiero di Dio, ed è quindi indispensabile compiere lo sforzo per costruire alcune basi che ci permettano di avere una retta comprensione di ciò che Dio ha voluto comunicarci. Noi non abbiamo i presupposti adatti per comprendere rettamente la Bibbia quale parola di Dio, anche perché ciò che nell'originale del testo sacro e plurale a volte è stato tradotto al singolare. Ciò che è singolare a volte è stato tradotto al plurale. Ciò che è maschile a volte è stato tradotto al femminile. Ciò che è femminile a volte è stato tradotto al maschile. Ciò che è nome proprio a volte noi l'abbiamo fatto diventare nome comune. Ciò che è nome comune a volte lo abbiamo fatto diventare nome proprio. È vero che una traduzione di un testo non può mantenere sempre alla lettera il senso originale, ma nel caso della traduzione della Bibbia, oltre a questo ostacolo, a volte vi è stata da parte dei traduttori la specifica volontà di cambiare il senso originale. Con questo non significa che nessuno abbia mai capito nulla della parola di Dio, o che senza i giusti presupposti non si possa comprendere niente, ma una limitata comprensione porta ad una vita limitata in tutti i settori, se non addirittura a insegnare dottrine di uomini. Per millenni gli uomini hanno creduto che il sole girasse intorno alla terra, e questo non ha impedito loro di vivere e moltiplicarsi, ma non hanno goduto il piacere di percorrerla tutta, e hanno insegnato cose false. Il primo errore fondamentale di traduzione della Bibbia è stato il termine Dio. Chi legge questa parola non può che avere nella mente un essere al singolare. Eppure la teologia cristiana da sempre ha insegnato che in Dio sussistono tre persone distinte. È vero che le tre persone della Trinità sono partecipi della stessa natura e perciò sono un'unica divinità, ma il termine singolare Dio non aiuta il lettore ad avere una comprensione trinitaria. Invece, se al posto del termine Dio noi avessimo l'equivalente del termine plurale ebraico Elohim, cioè di, non saremmo indotti a pensare ad una divinità al singolare ma a una al plurale. Ancora oggi vi sono innumerevoli credenti che non hanno compreso che la loro fede è posta in una divinità al plurale, senza per questo cadere nel triteismo. Alcuni credenti affermano che Dio è uno e, se anche la loro affermazione è vera, della loro mente, hanno l'idea di una persona e non di tre persone. Proprio per questo colossale errore, molti figli di Dio approvano l'idea comune che nell'ambito religioso tutti credono nello stesso Dio, anche se con sfumature diverse. Se vogliamo recuperare l'originale fede cristiana, dovremmo tradurre il termine Dio con Dio divinità e vedervi in questo termine un pluralità di persone. Questa lettura è indispensabile per comprendere anche il linguaggio del Nuovo Testamento. Dobbiamo ricordarci che la fede cristiana non inizia con il Vangelo di Matteo, ma essa ha le sue radici in quella ebraica. Perciò chi pone fede in Gesù Cristo deve rendersi conto che possiede una fede non solo cristiana, quasi che il cristianesimo fosse nato all'improvviso dal nulla 2000 anni fa, ma che possiede una fede giudeo-cristiana. Infatti, la parola di Dio è stata scritta interamente da persone di cultura ebraica, e Gesù, oltre che parlare ebraico e aramaico, ragionava con una mentalità semitica. Questo presupposto non dovrebbe mai abbandonare chi legge la parola di Dio. Così, quando nel Nuovo Testamento troviamo il termine Dio quale traduzione del termine ebraico Elohim, non possiamo pensare di trovarci davanti ad una parola che si riferisce ad una persona, ma a più persone. Quando leggiamo nel Vangelo di Giovanni che nessuno ha mai visto Dio, l'unigenito Figlio che è nel seno del Padre, colui che lo ha fatto conoscere, Giovanni 1:18, l'Evangelista non voleva intendere che nessuno ha mai visto la divinità di Israele o il Padre di Gesù Cristo, ma che nessuno ha visto la Trinità, e che Cristo Gesù, quale Figlio unigenito di Dio, l'ha fatta conoscere. La Trinità, dunque, si può conoscere anche se non si può vedere. Anche i termini che sono al plurale in ebraico, se tradotti al singolare, impediscono di comprendere appieno la rivelazione biblica. Prendiamo come esempio l'episodio del vitello d'oro che gli israeliti si erano costruiti. Trascorsi 40 giorni da quando Mosè era salito sul monte, leggiamo, or il popolo, vedendo che Mosè tardava a scendere dal monte, si radunò intorno ad Aaron e gli disse, or su, facci un Dio che vada davanti a noi, perché quanto a Mosè, l'uomo che ci ha fatto uscire dal paese d'Egitto, non sappiamo che cosa gli sia accaduto. Esodo 32:1-2. I traduttori hanno reso la parola Dio in minuscolo per far comprendere che il popolo si riferiva ad una divinità straniera. Ma nell'ebraico leggiamo che gli israeliti chiedono ad Aaron di fare Elohim che vadano davanti a noi. Cioè si esprimono al plurale. In seguito, dopo che il vitello fu formato mediante la fusione di metallo, il popolo disse, questi sono Elohim tuoi, o Israele, che ti fecero salire dall'Egitto. 32:4-8. Non si tratta di cavillare su di un nome o su un uso grammaticale, ma se un sostantivo ha un significato, se la sua forma plurale comunica un concetto diverso da quello espresso dal suo singolare, occorre essere precisi per non sviare il lettore dal pensiero che lo scrittore intendeva comunicare. Nel nostro caso, quindi, il popolo di Israele si riferiva ad una divinità il cui nome, Elohim, è un plurale, e di conseguenza ha al proprio interno il concetto di pluripersonalità della divinità in questione. Dalle fonti di conoscenza della storia semitica risulta che il termine Elohim era il nome che comunemente i popoli, fra i quali Israele, attribuivano ad ogni divinità, sia che si trattasse di uno o più dei, con una differenza. Israele, quando si riferiva alla sua divinità, pur chiamandolo Elohim, ne esprimeva le azioni utilizzando un verbo coniugato alla terza persona, singolare. La prova l'abbiamo al primo versetto della Bibbia, nel principio Dio creò i cieli e la terra. Tale passaggio, se tradotto correttamente, dovrebbe essere reso nel seguente modo. Nel principio, Dio creò. Perciò il popolo di Israele, quando parlava della sua divinità, la definiva con un sostantivo plurale, ma si riferiva ad una sola persona. In effetti la divinità degli ebrei non era Dio come noi lo intendiamo oggi, e neppure una divinità vaga, ma era Yahweh. Per centinaia di volte leggiamo nelle scritture che era Yahweh, la divinità di Israele. È sufficiente ricordare la confessione di fede ancora valida oggi del popolo ebraico. Ascolta Israele, l'Eterno, il nostro Dio, l'Eterno, è uno. Deuteronomio 6:4. Se riusciamo a cogliere questa sfumatura, siamo in grado di comprendere il messaggio del Nuovo Testamento, il quale afferma che ogni cosa è stata creata sì da Dio, cioè dalla Trinità, ma tramite Cristo. In definitiva, chi ha creato ogni cosa è stato Cristo. Ma poiché Cristo sussiste nella stessa natura divina del Padre e dello Spirito, allora è possibile anche affermare che chi ha creato è Dio, ma solo con la premessa che l'esecutore materiale o il creatore è stato Yahweh, cioè Cristo. In merito all'errore di traduzione in ebraico dal femminile al maschile, prendiamo in esame il termine spirito. Leggiamo nel secondo versetto della Bibbia: la terra era informe e vuota, e le tenebre coprivano la faccia dell'abisso, e lo Spirito di Dio aleggiava sulla superficie delle acque. In ebraico il termine tradotto in italiano con spirito è ruach, un vocabolo femminile. Così, ogni volta che gli ebrei leggono la ruach di Dio, hanno in mente qualcosa di femminile. E poiché la teologia cristiana insegna che lo Spirito è una delle tre persone della Trinità, la conclusione più ovvia è che lo Spirito sia una persona femminile. Questa conclusione sconvolge profondamente la nostra cultura, che riguardo allo Spirito è da sempre abituata all'immagine mentale di una persona maschile. L'errore deriva anche dal fatto che nel Nuovo Testamento il termine Spirito è reso con un termine neutro, dando la possibilità di pensare ad una persona maschile. Anche qui non si tratta di cavillare se la natura divina dello Spirito sia maschile o femminile, ma si tratta solo di arrivare alla non assurda conclusione che in Dio, cioè nella Trinità, sussiste una natura maschile e femminile, il che concorda con ciò che leggiamo nel libro della Genesi: così Dio, cioè Cristo, creò l'uomo a sua immagine. Lo creò a immagine di Dio, cioè della Trinità, li creò maschio e femmina, Genesi 1 e 27. Nulla di eretico quindi se si afferma che nella Trinità vi sia un padre, un figlio e una madre. Diversamente, la donna, che è femminile, non è stata fatta d'immagine di Dio. Perciò la differenza sessuale, come ha sottolineato Karl Barth, è se stessa immagine di Dio. Conclusione che mette in imbarazzo molte persone, come quella di John Frame, professore di teologia sistematica, riportata nella rivista Studi di Teologia, numero 28, dove dice: sarebbe dunque strano sostenere che la sessualità sia l'essenza dell'immagine divina, anche se personal me, Nuovo Testamento e la ritengo, insieme a tutto ciò che siamo, una sua compone Nuovo Testamento e. Del resto occorre essere sinceri. Nella nostra teologia parliamo di Dio come padre e come madre, diversamente non avrebbero senso preghiere come quelle che troviamo nel periodico Riforma: o Dio che sei nostra madre e nostro padre. Ci affidiamo unicamente al tuo amore, amore di madre accogliente e di padre generoso. 24 luglio 2009. Se poi il termine madre è simbolico, cioè non esprime realmente ciò che si dice, per coerenza lo è anche il termine padre, e se Dio non è né padre né madre, che cos'è? Questi esempi dimostrano che noi abbiamo la necessità di avere i giusti presupposti per comprendere rettamente la Bibbia quale parola di Dio, sia perché abbiamo una mentalità moderna, formata sul fondamento di strati accumulati di errori interpretativi che ci hanno nettamente allontanati dal senso originale, sia perché la Bibbia, sotto tutti i punti di vista, è un libro ebraico. Se abbiamo radicato in noi questi presupposti e prendiamo sul serio la nostra ignoranza e cultura greco-romana, ci daremo da fare per acquisire una mentalità e una cultura ebraica. Febbraio 2003, Ellero.